Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Eliminare le sostanze tossiche dalla linea di produzione. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Questo l'impegno che 8 grandi brand di abbigliamento hanno messo nero su bianco, spinti da Detox, la campagna internazionale di Greenpeace a favore dei prodotti ecosostenibili nella moda. Ne parleremo nel primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere. Focus sui trend dedicato invece alla circomania, quando saltimbanchi e trapezisti, immagini e atmosfere del circo fanno tendenza. Prima ci sono come sempre le notizie e curiosità di questa settimana. Accordo da 50 milioni di dollari tra Beyoncé e Pepsi. Il volto della cantante comparirà su un'edizione limitata delle lattine della celebre bevanda a marzo 2013. Nell'accordo anche la sponsorizzazione del tour mondiale della pop star e un nuovo spot. Chef stellati per preparare pasti per le mense. Saranno 25 cuochi di grido i docenti delle tavole accademiche, il nuovo progetto dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Coniugare buon cibo a prezzi contenuti e senza sprechi, la sfida. Avranno a disposizione 5 euro a pasto. Il cibo avanzato sarà venduto già nel pomeriggio. Un libro e una mostra alla Triennale di Milano per alta gamma. In occasione del suo 20° anniversario, la fondazione, che riunisce più di 70 marchi che operano nella fascia più alta del mercato italiano ed internazionale, si racconta attraverso gli scatti di 10 giovani reporter dell'agenzia Contrasto. L'antitrust boccia come pubblicità ingannevole lo spot con cui l'estate scorsa Fiat prometteva il blocco del prezzo della benzina a 1 euro al litro per 3 anni. L'autorità contesta all'Ingotto, multato con 200.000 euro, di aver omesso alcune informazioni sull'offerta, come segnalato dall'Unione Nazionale Consumatori e da Altro Consumo. La borsa della spesa. Garment industry supplies the world with low cost clothing, but it comes at a high price. Un Florin, un H&M, Converse. The spotlight on the toxic Adidas, Uniqlo, Calvin Klein. The secret of major brands. Ew, do you like this clothes in my hands? We won't stop until this madness ends. Until this madness ends. We won't stop until this madness ends. We won't stop until this madness ends. Quella che sentite in sottofondo, il video lo trovate sulla nostra pagina Facebook, è la canzone che riassume lo spirito della campagna Detox, campagna promossa dall'organizzazione ambientalista Greenpeace per liberare la produzione tessile dalle sostanze tossiche inquinanti. Una campagna fatta anche di proteste eclatanti davanti ai negozi delle grandi catene di abbigliamento in tutto il mondo, una campagna che ha indotto il colosso spagnolo Zara, la notizia è di qualche giorno fa, a firmare l'impegno per eliminare le sostanze chimiche pericolose dai propri prodotti lungo tutta la catena di fornitura entro il 2020. Zara è l'ottavo marchio che sottoscrive questo impegno dall'inizio della campagna nel 2011. Se la più grande azienda della moda può farlo, dice Greenpeace, non ci sono scuse per gli altri marchi che mancano all'appello. I consumatori hanno il diritto di sapere come e quanto i fiumi sono inquinati dalle sostanze chimiche pericolose presenti nei nostri vestiti, ci dice Alessandro Gianni, che è il direttore delle campagne di Greenpeace Italia. Il nostro mestiere è quello di sperare di restare disoccupati, purtroppo senza pressione le imprese o i governi o anche i stessi cittadini non si rendono conto dei problemi che causano a questo pianeta e a tutti noi in realtà. C'è una constatazione un po' amara, ma insomma almeno è positivo che sia stato un risultato. Quanto sono inquinate le catene di produzione di molti fra i grandi marchi? Di quali sostanze stiamo parlando e con quale pericolosità? Premesso che il rischio per la salute è relativo, dipende soprattutto dal fatto che queste sostanze poi noi con i lavaggi le ributtiamo nei nostri fiumi e magari poi ci tornano addosso. Il rischio per la salute è molto più grave per le popolazioni che stanno nei pressi degli impianti che producono questi tessili e sono soprattutto dislocati dalla Turchia fino al Bangladesh, all'estremo oriente. Detto questo, diciamo che ci sono praticamente due tipi di sostanze pericolose, due grandi categorie. Alcune sostanze sono pericolose perché sono proprio tossiche, quindi se uno viene a contatto con una certa dose, oltre una certa dose di queste sostanze, si hanno rischi immediati per la salute. Altre sostanze invece sono, come dire, più subdole, perché tendono ad accumularsi nel nostro organismo e danno problemi. Per fare un esempio, proprio in un capo di abbigliamento di Zara sono state trovate tracce di sostanze che si chiamano aniline, sono praticamente dei coloranti e sono sostanze tossiche. Invece in altri capi di abbigliamento sono state trovate per esempio sostanze che sono i ftalati, sono sostanze che dipendono più che dal processo della produzione del tessuto, dagli stampaggi che si fanno sulle magliette, e gli ftalati sono invece distruttori endocrini, quindi sono sostanze che si accumulano e che in maniera, come dire, subdola alterano i nostri equilibri ormonali. Diciamo chi manca all'appello, che saranno, immagino, i vostri prossimi obiettivi. La prima regola è che i prossimi obiettivi non si dicono mai, sicuramente ci sono degli altri grandi marchi che devono cambiare, tra questi citati negli ultimi rapporti di Greenpeace, sicuramente Levi's e Calvin Klein. Come può tutelarsi il consumatore? Il consumatore, soprattutto, quello che può fare è, chi ha fatto per esempio con Greenpeace, di chiedere a queste grandi imprese di cambiare, di avviare un sistema, come dire, una pratica generalizzata che elimini le sostanze pericolose che tutti sappiamo che loro usano. È chiaro che un produttore da solo ha difficoltà a farlo, perché la produzione è così globalizzata che in realtà sono relativamente poche fabbriche che poi vendono a un notevole numero di produttori che mettono il marchio. C'è bisogno di un impegno, diciamo, a livello quasi di categoria, diciamo così. Sono i grandi marchi che ovviamente hanno più responsabilità e hanno anche, come dire, la capacità di controllo del mercato, mettiamola così, per chiedere e pretendere cambiamenti. E noi su questo stiamo lavorando, abbiamo già più o meno una decina di grandi marchi che sono su questa strada, e il nostro obiettivo è arrivare al 2020 con la completa eliminazione di queste sostanze pericolose. Quanto sta crescendo la consapevolezza dei cittadini e dei consumatori, e quanto sarà determinante per i consumi nei prossimi anni? Noi crediamo che siamo sempre più vicini al momento in cui, diciamo, sarà fatale rendersi conto che il nostro sistema di consumo è aberrante. Questo non vale ovviamente solo per il tessile e per le sostanze tossiche, vale per molte altre cose, per esempio per l'energia, il cambiamento climatico. Sappiamo già che c'è una consapevolezza notevole da parte dei cittadini. Quello di cui noi ci rendiamo conto è che ancora dal versante della politica si presta più attenzione a certe imprese che vogliono continuare a fare profitti piuttosto che alle preoccupazioni dei cittadini. Il grande cambiamento che deve avvenire, e deve avvenire rapidamente se vogliamo rimediare alle situazioni complicate che abbiamo creato noi stessi, è che questo cambiamento deve avvenire il più presto possibile. Non abbiamo moltissimo tempo. Sul tema della produzione tessile vi segnaliamo anche Behind the Label, Dietro l'etichetta, documentario inchiesta sulla diffusione di piante geneticamente modificate nella coltivazione del cotone in India. Trovate il trailer anche in questo caso sulla nostra pagina Facebook. E ora con Cristina Lazzati, vice direttore area retail di Business Media, parliamo di bilanci di sostenibilità. Feder Distribuzione, l'associazione della distribuzione moderna organizzata, ha presentato in Senato il primo rapporto di sostenibilità di settore. L'85% impiega energia rinnovabile e pone attenzione alla riduzione dei rifiuti. L'80% offre prodotti attenti all'ambiente. Il radicamento sul territorio porta a sviluppare iniziative pensate per le comunità. Il 40% acquista prodotti da soggetti di interesse sociale e tutte le aziende alimentari collaborano con aziende no profit per la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Passando al lavoro, l'88,7% dei collaboratori ha un contratto a tempo indeterminato. Forte la componente femminile e giovanile, il 23,1% ha meno di 30 anni, diffuso il part-time. Signori e signore, benvenuti al circo. Siete pronti ad entrare nella magia del tendone a strisce? Lo faremo tra pochissimo nel focus sui trend di questa settimana dedicato alla circomania, subito dopo la pausa. Essere e avere. Signore e signori, vola per le osterie una dolorosa notizia. Il signor Augusto, detto Pagliaccio, si è dipartito, involato, deceduto, è morto. Ero il personaggio più grande che Ashton avesse mai avuto. Il mio sogno del circo. 10 anni. Un bel ricordo. Questa sera è l'ultima col mio buon vecchio numero. E poi è anche luna piena. La trapezista si rompe l'osso del collo. Sta zitta. Zitta. Dumbo! La nona meraviglia dell'universo. L'unico pachiderma volante. Di nuovo in studio con Essere e Avere, da Charlie Chaplin a Federico Fellini fino a Wim Wenders e Tim Burton, passando per il disneyano Dumbo, quanto il circo ha ispirato registi, ma anche scrittori, poeti, pittori e musicisti. È uno degli indizi del focus sui trend di questa settimana, dedicato appunto alla circomania. Accanto a me c'è, come sempre, la nostra esperta di nuove tendenze, Patrizia Martello di Memetic Club. Ciao Patrizia, ben ritrovata. Grazie, ciao, buongiorno a tutti. Il circo, le sue atmosfere, il suo immaginario stanno attraversando una vera e propria riscoperta. Influenzano la moda, il design, la comunicazione, lo sport, il retail, la musica e l'arte in generale. Fino a qualche tempo fa snobbato, passato di moda, il circo ora si sta prendendo la sua rivincita e vuole riconquistare quella dignità culturale che aveva nella prima metà del Novecento, quando era celebrato dai più grandi artisti. Il circo, insomma, ha saputo reinventarsi e rimodularsi sul nostro tempo per vivere una seconda giovinezza. Il circo fa tendenza. Patrizia. L'immaginario circense rimanda a un mondo allegro e decadente insieme, trasgressivo e favolistico insieme, inquietante, onirico, fatto di poesia, colori balocchi, ma anche di fenomeni da baraccone, di animali segregati e svogliati, insomma stupore e incanto, ma anche tristezza e nostalgia. È un immaginario ricco, denso, potente, che pervade ciclicamente i codici espressivi del mondo dei consumi, non solo culturali. Oggi, tra le più immaginifiche oniriche cantanti e performer della scena musicale contemporanea, per esempio l'islandese Björk ha incluso nella sua tournée di 6 date a Parigi, dal 21 febbraio all'8 marzo prossimi 2013, 4 live performance sotto il tendone di un circo, il Cirque en Chantier, un'attenso struttura stabile su un'isoletta lungo la Senna che ospita regolarmente spettacoli circensi di grandissime compagnie internazionali. Signori e signore, benvenuti al circo, lo dice anche Circus London, un bar, ristorante e cabaret a Londra, zona Covent Garden, con gli interni progettati da Tom Dixon, che ricreano il mondo immaginario del circo tra glamour e escapismo e fuga in questo mondo. Circus offre spettacoli a tema che coinvolgono come spazio performativo anche la parte ristorante, compresi i tavoli su cui si mangia, il bar e non solo quella dedicata alla musica e agli spettacoli. Recenti espressioni dell'immaginario circense nel design e nella moda, che appunto recuperano questo mondo e lo continuano a reinterpretare e reinventare in termini di estetica e di linguaggi. Qualche esempio: Clown Lamp, la lampada pagliaccio, o Circus, la libreria ispirata al tendone da circo. Tra i corsi e ricorsi relativi recuperi ricordiamo anche nel mondo moda Etro Circus, il grande evento in stile circense che la storica famiglia della moda italiana ha creato nel 2009 per celebrare i 20 anni di attività in Giappone. Sotto il tendone, trapezisti, giocolieri, modelli, la collezione di allora, in una mescolanza perfettamente coerente, secondo appunto questo marchio, per il quale la moda deve e sa meravigliare e incantare proprio come il circo. E poi Camper, marchio di calzature spagnolo, che ha usato in questi anni per alcuni flagship store il tema del circo, di nuovo le righe del tendone per gli allestimenti interni e delle vetrine. E poi stilisti come Vivienne Westwood e anche Galliano, che hanno realizzato capi eccentrici ispirati per esempio ai presentatori del circo, il super doppio petto con colori sgargianti, ma ancora accessori dalle sciarpe della designer newyorkese Ling Cheng alla borsa circo di Braccialini o le Magic Circus di Piero Guidi a quelle del marchio britannico Lulu Guinness. Edizione natalizia per il Circo delle Pulci, questa neotribù nomade metropolitana, quasi una volta al mese irrompono nelle domeniche delle grandi città italiane con eventi che sono un po' festa di piazza, un po' po' DJ set, karaoke anni 50-60, spettacoli di magia e giocoleria, salti in banchi, giochi laboratori, show e performance. Ed è molto atteso al cinema il film prodotto da James Cameron, il regista di Titanic e Avatar, dedicato al celebre Cirque du Soleil. La compagnia circense più grande al mondo conta, pensate, 3.800 artisti impegnati in 8 spettacoli itineranti e 9 fissi. Una pellicola in 3D che vuole portare lo spettatore nel cuore del circo. Everyday life can sometimes seem ordinary. So it's natural to crave something more. To hunger for something that you can't describe. As it turns out, all you have to do is step inside. Questo era il trailer in lingua originale, quello in italiano non è ancora uscito. Se volete vedere anche le immagini meravigliose le trovate sulla nostra pagina Facebook. Patrizia, quanto il Cirque du Soleil, conosciuto come il circo senza animali, è uno degli artefici di questa grande riscoperta del circo? Cirque du Soleil è uno dei casi più interessanti di reinvenzione del circo contemporaneo, ma non solo, di un modello di business e di strategie di posizionamento e di marketing che ne hanno fatto una case history da manuale. Offre il divertimento, la magia, le emozioni del circo, mantenendone quindi i tre elementi di fascino immutati e immutabili, il tendone, i clown e i numeri acrobatici, ma appunto niente domatori, belve feroci, niente freak, niente donne cannone, eccetera. Che cosa ha aggiunto? Ha aggiunto degli elementi estranei al circo, cioè la ricchezza artistica del teatro, soprattutto quello di strada, la trama che collega i diversi numeri, dunque storytelling e la tonalità narrativa, la musica e i pezzi di danza. Si è ricavato dunque uno spazio di mercato del tutto nuovo, puntando anche su segmenti di clientela nuovi, per esempio adulti e professionisti e non solo famiglie e bambini. Si chiama strategia Oceano Blu, quella messa in atto da Cirque du Soleil, uscire cioè dall'oceano rosso della competizione spietata e posizionarsi nell'oceano dove per vincere non bisogna battere i concorrenti, ma innovarsi a tal punto da non averne. Le sperimentazioni di Cirque du Soleil vanno oltre la ricerca di nuovi linguaggi come quello cinematografico, come abbiamo sentito. Con Google Chrome, infatti, di recente realizzazione il sito Movi Canti Revo, un browser pensato esattamente come un palcoscenico, grazie alla webcam si entra nel mondo incantato del circo, esplorabile interattivamente con i movimenti di chi naviga. E si ispira a Cirque du Soleil anche un fumetto Marvel, si chiama Ka, riproduce le esibizioni dal vivo sulla pagina cartacea. È stato definito un fumetto unico nel suo genere, secondo l'editore della Marvel Comics William Roseman, che ci ricorda come mistero, humor e romanticismo siano gli ingredienti e del Cirque du Soleil e di tutto ciò che di fatto ha creato la Marvel. Si è ispirato a Cirque du Soleil anche Desigual, che l'anno scorso ha prodotto una linea che si chiama proprio Inspired by Cirque du Soleil, in linea con la densità esplosiva di colori e di motivi delle sue consuete proposte stilistiche. Molte le scuole di circo anche per bambini, ricordiamo la piccola scuola di circo di Milano, posti in cui si insegnano le varie discipline di questa attività artistica, così come la declinazione di attività più adrenaliniche e stravaganti come il trapezio che arriva nelle palestre, in linea con un'idea di fitness sempre in cerca di continua originalità nella strabordante offerta di corsi e discipline. E ci sono anche videogiochi a scopo riabilitativo che hanno fatto del setting circense la loro caratteristica distintiva, lanci di coltelli, giocoleria, corse da clown da riprodurre con relativo punteggio personalizzato. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo ad Atene sulla circomania? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher Alessia Zampano di Memetic Club. Ciao Alessia, ben ritrovata. Ciao, buon pomeriggio, grazie. un elefante stilizzato che, anziché stare a cavallo di una bicicletta come succede al circo, sta a cavallo di una vespa. È il logo molto esplicativo del City Circus, un ostello che ha aperto i battenti nel giovane e movimentato quartiere di Psirri e che si racconta come una sorta di circo metropolitano, a partire dall'immagine coordinata, dalla grafica che viene declinata nel sito, nelle brochure e che ritroviamo nell'ostello stesso, sotto forma di un grande murales posto all'ingresso e che è improntata appunto a un'estetica circense d'altri tempi, con uomini forzuti nel classico costumino e donnine in stile Moulin Rouge, il tutto all'interno di un antico palazzo ristrutturato dei primi del Novecento. Caratteristiche che ne fanno il rifugio ideale, come si legge sul sito stesso, per i viaggiatori indefessi, gli artisti in fuga, gli acrobati della vita, così vengono definiti, coloro che vivono sul filo, che vogliono esplorare il mondo in libertà e che in questo posto, come in un circo, possono convivere con il surreale e abbracciare il bizzarro. Grazie Alessia. Patrizia, siamo in conclusione. Perché questa riscoperta del circo ora? Che cosa lo rende affine a questo momento storico? Ma in realtà il circo è anche diventato già la metafora di un concetto sociologico, quello della liquidità, noto e molto in uso anche tra i non addetti alle scienze sociali. È il concetto di Zygmunt Bauman, sociologo, che è diventato appunto anche uno spettacolo teatrale, Bauman Circus, ispirato proprio ai temi della liquidità, cioè al cambiamento repentino delle società contemporanee che investe migrazioni, famiglie, lavoro, economia e consumi. Dunque la metafora del circo tiene con il nostro presente di modernità liquida. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Resta solo il tempo per ricordarvi il nostro sito radio24.it, sezione programmi, per riascoltare e scaricare questa come le altre puntate. La nostra pagina Facebook, trovate le puntate anche lì per mandarci le vostre idee, i vostri suggerimenti, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.